9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 3 di dicembre, buon onomastico a coloro che oggi festeggiano Francesco Saverio, si chiama questo il santo del calendario liturgico. Allora, le pillolette di giornata prima di arrivare al tema della giornata, che lo sapete, l'ho lanciato, è il libro di Sergio Rizzo, Razza Stracciona, Uomini e storia di un'Italia che ha perso la rotta, Rizzoli, un affresco di quelli da leggerli e rileggerseli con calma per far alzare la temperatura dell'indignazione interna, perché sono grandi e vasti pezzi d'Italia in cui, a dire la verità, non si riesce a tenere ferma una regola di etica pubblica, e non riguarda solo la politica, anche se la politica è naturalmente in prima fila, non riguarda solo la discrezionalità della pubblica amministrazione, anche se anch'essa naturalmente miete le sue vittime. Il problema è quello di un paese che in vaste parti delle sue classi dirigenti, in quelle dell'impresa, in quelle della finanza, in quelle della banca, non fanno altro che assumere a propria volta il capovolgimento di un ethos pubblico come regola da seguire, e quindi nella regola delle eccezioni per sé, quanto poi a voce si implorano e si dichiarano la regola per gli altri, ecco un paese che poi sprofonda nella melma. Ma prima di questo le pillole, appunto. Cosa pensate della vittoria di Pierluigi Bersani nel ballottaggio del PD? Ditecelo con le vostre telefonate, perché stamattina con Alessandro Milan abbiamo ovviamente sentito i primi commenti, li sentite del resto da ieri sera, quindi per questo ho deciso di non cambiare il tema della puntata, però vi apriamo i telefoni perché ci diciate se davvero pensate che Pierluigi Bersani, con la freddezza con cui ha detto a D'Alema mai visto che non bisognava preoccuparsi, come dire ho regolato il ragazzino, sia il futuro, oppure se è una vittoria di questo tetragono, inaffondabile spirito di difesa della continuità organizzativa del partitone rosso più rosso della storia italiana. E questo si difende con 107 segretari provinciali contro 310, migliaia e migliaia di persone ieri lasciate fuori dai seggi perché non dovevano votare Renzi, perché la regola è se non sei dei nostri allora resti a casa, non vogliamo il tuo voto, noi siamo eticamente superiori, sappiamo noi chi è eticamente superiore e quindi non votate. E Matteo si è piegato, io ho trattato fino alla fine che Matteo Renzi dicesse va bene, se è vero come è vero, come dice oggi Arturo Parisi, che abbiamo due idee diverse della democrazia, titolo dell'intervista di Arturo Parisi, ho trattato che dicesse continuo la mia sfida da un'altra parte. No, purtroppo non è avvenuto, quindi peccato, perché io credo che questa cosa avrebbe cambiato inevitabilmente il segno delle elezioni politiche, sarebbe stato molto duro per Matteo Renzi uscire, lo capisco, però credo che sarebbe diventato inevitabilmente il candidato naturale della vittoria di un cambiamento alle prossime elezioni politiche. Purtroppo non è avvenuto, posso capirlo, ma me ne rammarico molto, perché credo che i milioni di italiani che sono alla ricerca di una soluzione nuova e non la trovano neanche nel PD di Luigi Bersani, perché trovano una soluzione che conoscono, uno specie di usato garantito della sinistra più patrimoniale, ma non credo proprio che sia una cosa che esalti. Del resto però la forza del PD e della sinistra è quella di avere una soluzione, di dare forza, apertura a forme nuove come le primarie aperte o fino a un certo punto aperte, quando dall'altra parte il PDL è un'autosepoltura quotidiana senza onore, senza logica, senza linea, senza soluzione. E quindi da questo punto di vista è ovvio che la forza residua del PD è una forza incomparabile rispetto a quella di un PDL che non esiste. Comunque, sorpresa, abbiamo la notizia oggi che Tremonti scende in campo in tutte le regioni, si allea con Lombardo al sud, si allea con Maroni al nord, è una specie di in piccolo la stessa mossa di Berlusconi nel 1994 con le alleanze diverse per superare il problema di come prendere il quorum. E nella domenica ieri un'altra sorpresa, la scesa in campo di Alfio Marchini, che scioglierà il conflitto di interessi, costruttore rosso in passato, ma come candidato a sindaco di Roma con una lista civica. Posso dirvi, io invece penso che questa sia una buona notizia. Vediamo se Alfio Marchini saprà tenere fede a quello che ha detto ieri con le prime parole. Grande interesse per me con questa novità, per così dire, perché penso che pezzi di Italia che non hanno avuto a che fare con la politica, che accettino di misurarsi con la sfida, siano un segno positivo. Poi, cosa pensare dell'arresto e della commedia, del riarresto poi dopo i domiciliari, del riarresto anche redazione di Sallusti? Io spero che nessuno di quelli in ascolto possa equivocare. A me non piace quel tipo di giornalismo di destra che mi ha anche licenziato. Detto questo, io trovo che la vicenda dell'arresto e del riarresto di Sallusti, l'ho detto fin dal primo giorno, sia un'altra caricatura italiana ed è paradossale. Per quanto quell'articolo fosse un articolo che non avrei mai pubblicato, l'arresto e il riarresto è il classico paradosso di un'Italia in cui si può ancora finire in carcere per ciò che si scrive, e magari ci si può finire con maggior plauso da parte dell'Italia per bene quando poi si è rivestito il ruolo di un giornalismo che a quelli tra virgolette autodefinitesi per bene non piace. Quindi da questo punto di vista io sono solidale con Sallusti e non con chi lo incarcera. E non è una questione di casta, non è una questione di solidarietà pelosa, è una questione di ridicolaggine della norma. E lasciamo perdere quanto è stato ridicolo poi tutto il Parlamento e tutte le promesse non mantenute. Infine, l'ultima pillola, questa vicenda dell'Ilva, guardate che va di male in peggio, perché l'impugnativa promessa che sarà mantenuta da parte del magistrato al decreto fatto dal governo per rendere operativa l'autorizzazione integrata ambientale, che era già stata una prima risposta ai sequestri cautelativi della magistratura, avvita questa vicenda intorno all'albero sbagliato, cioè quello della lotta tra potere esecutivo e potere giudiziario, mentre invece l'unica questione, la possibilità a mio giudizio per tenere aperta non solo l'Ilva ma per tenere in piedi il 20° gruppo della siderurgia mondiale, cioè il gruppo italiano Riva, sempre che non si sia deciso intanto di fargli vendere, perché questo è quello che capisco io da quel decreto, è quello di sfreddare il conflitto con la magistratura e di capire che da parte della famiglia, uno, cioè la proprietà privata, due, da parte del governo, risorse in più, ma ci bisogna soprattutto puntare a fare di questa vicenda un grande caso europeo, perché senza risorse europee la capienza delle finanze necessarie alla bonifica di quell'impianto di cui io continuo a difendere la necessità non si porta a casa. E quindi da questo punto di vista, secondo me, il fine settimana ci ha portato più ombre che luci. Eccoci qua, dopo la fine delle pillole quotidiane, al tema della giornata. E il tema della giornata qual è? Sergio Rizzo, grande giornalista del Corriere della Sera, che in questi anni ha alimentato con i suoi scritti la casta del 2007, la deriva, Vandali, licenziari padreterni, Così parlò il Cavaliere, Rapaci, la Cricca, un grande disegnatore di ritratti di ciò che non funziona nell'Italia pubblica e privata dei nostri anni. E il nuovo libro appena uscito si chiama Razza Straccione, è il titolo, lo trovate in Rizzoli, in libreria. Uomini e storie di un'Italia che ha perso la rotta, è una specie di rappresentazione di come la decadenza del palazzo, della politica e del costume pubblico abbia intrecci purtroppo inestricabili, molto profondi, con le classi elevate che compongono le nostre cronache quotidiane nella grande banca, nella grande finanza, nelle imprese quotate. E da questo punto di vista questa Razza Stracciona è chiaramente un titolo che riecheggia, ma in termini purtroppo beffardi, la vecchia razza padrona del libro di Turani e di Scalfari di tanti anni fa. E con noi Sergio Rizzo, buongiorno e grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto una lettera di un imprenditore, almeno così lui si definiva in questa lettera, dopo che il Corriere aveva pubblicato un editoriale mio in cui mi domandavo perché la Ducati finisse in mani tedesche e non in mani italiane, visto che gli italiani imprenditori ce ne sono tanti e ce ne sono tanti anche con i soldi. E lui, scrivendo questa lettera, sostanzialmente mi accusava di non sapere che in Italia c'era l'articolo 18 e quindi c'era, come dire, una sorta di clima negativo, ostile all'impresa, e quindi la ragione era questa, secondo lui. Io gli ho ricordato nella mia risposta che anche i tedeschi sanno benissimo che in Italia c'è l'articolo 18, ma la Ducati se la comprano lo stesso. Da qui sono partito poi. Perché? Perché l'Italia è piena di grandi capitali d'industria che sono disponibilissimi a investire nel mattone, perché il mattone ti fa guadagnare un sacco di soldi in fretta, comprare delle azioni in borsa per poi rivendersele subito perché ti fa guadagnare in fretta, però sono poco disposti magari a investire nell'industria, nell'innovazione, questo nel lavoro, e questo è secondo me il motivo per cui l'Italia, è uno dei motivi per cui l'Italia si trova nelle condizioni in cui si trova, cioè non è soltanto la classe politica che ha contribuito al degrado di questo paese, al degrado civile, al degrado sociale ed economico, ma ahimè è anche una certa parte della nostra imprenditoria. Insomma, quando vediamo le grandi imprese che, anziché, come dicevo, puntare sull'innovazione, preferiscono rifugiarsi nei settori protetti come quelli dei servizi a tariffa, per le autostrade piuttosto che con i telefoni e cose di questo tipo, già si capisce che piega ha preso la vecchia razza padrona, per capirci quella che ha fatto l'Italia industriale, quella che ha fatto, in qualche modo, dato un contributo perché questo paese risorgesse dalle macerie del dopoguerra, ecco. Allora, tu passi in rassegna tra i finti imprenditori molto numerosi esistenti in questo Parlamento e poi la rappresentanza degli imprenditori. Questa è la del Confindustria, ma io lo dico con grande sincerità e senza nessun problema, è un libro che gli associati a Confindustria, soprattutto chi fa vita di rappresentanza associativa di Confindustria, farebbe bene a leggere, perché c'è un bel capitolo tra quelli iniziali in cui, con lame affilate, si fa giustamente, secondo me, fiori di critica su come siete organizzati, cari amici di Confindustria, su come spendete i soldi, col paragone impietoso tra le poche decine di associazioni che confluiscono in BDI la Confindustria tedesca e le diverse centinaia che invece compongono il mondo delle Confindustria. Ma insomma, non si risparmiano, e secondo me è giusto, e per questo io propongo il libro di Sergio Rizzo all'attenzione di chi ci ascolta, mettere sullo stesso piano le critiche ai finti imprenditori che si dichiarano in Parlamento e ai molti, diciamo così, tra gli imprenditori delle file più elevate, che insomma ne approfittano anche loro. È una simmetria, secondo te, Sergio, che c'è in tutta la storia italiana, negli ultimi 20 anni, con la Seconda Repubblica è diventata più forte? Come la pensi? Ma dunque, c'è in tutta la storia italiana, questo bisogna dirlo, no? Con chiarezza. Il legame tra la politica e una certa imprenditoria è sempre stato radicato in questo paese, fin dai primi anni dopo l'Unità d'Italia. Io cito un esempio: la concessione delle ferrovie meridionali nel 1862 venne data a un signore che si chiamava Bastoggi, che era stato fino a qualche mese prima ministro delle finanze, insomma, no? Quindi da questo punto di vista, ecco, c'è un filo rosso che purtroppo che percorre tutta la storia del nostro paese fin dall'unità. Ma ahimè, però, molte cose sono peggiorate negli ultimi anni. Sono peggiorate perché non si è compreso bene fino in fondo il ruolo che deve avere l'impresa in una società moderna. L'impresa privata, parlo. L'impresa privata ha una profonda funzione sociale in tutti i paesi sviluppati. Basta vedere negli Stati Uniti, insomma, gli Stati Uniti, che sono il paese forse più liberale del mondo, gli imprenditori privati sono quelli che sostengono, che sentono il dovere di sostenere le università, di sostenere i grandi musei, di sostenere la cultura. Ecco, da noi questo non c'è ed è, secondo me, una cartina di tornasole molto, molto importante questa, per capire che, insomma, qual è la differenza di approccio tra i nostri imprenditori e gli imprenditori, diciamo, dei paesi sviluppati. Ecco, noi se non facciamo, credo, se i nostri imprenditori non faranno questo salto culturale, credo che l'Italia farà molta fatica a risollevarsi dalla situazione in cui si trova. Ricordo che noi siamo il paese che in questi ultimi 15 anni è cresciuto di meno in tutta Europa, ha avuto il minore aumento di produttività, ha avuto il maggior aumento della disoccupazione negli ultimi anni, tranne se eccettuiamo la Spagna, ovviamente, che si trova in situazioni forse più complesse delle nostre. Ma insomma, è una situazione molto difficile che non possiamo ascrivere, ripeto, soltanto alla pubblica amministrazione inefficiente, ad una politica incapace di guidare il paese. Tu hai fatto nell'ultimo capitolo il riscontro comparato tra quanto gli imprenditori italiani hanno dato per cultura in Italia in un anno e quanto hanno fatto allo stesso fine i loro colleghi tedeschi. Eh sì, è un rapporto impietoso, perché mi pare che siamo 58 milioni gli italiani, comprese le fondazioni bancarie, che va sottolineato sono i maggiori finanziatori, poi e sono soggetti privati fino a un certo punto, esatto. Lo sappiamo, no? E i 4 miliardi dei tedeschi, insomma, questo è impressionante, tenendo conto che l'Italia è il paese che ha, dicono tutti gli esperti, il maggiore patrimonio storico, artistico, culturale, ma anche dal punto di vista dell'università. Dobbiamo pensare che l'Italia è il paese dove sono nate le università in Europa, cioè l'Università di Bologna e di Padova sono state le prime, quindi è il paese che, insomma, nell'ultimo millennio ha sempre fatto da apripista in tutti i settori. Qui sono state inventate le banche, sono state inventate le assicurazioni, qui sono state inventate le royalty. Ricordiamo che la bandiera inglese è la bandiera di Genova, che gli inglesi presero in affitto dai genovesi perché gli serviva un vessillo da stare sulle navi, perché incutesse timore quindi, diciamo, questo è un paese che ha una storia pazzesca da questo punto di vista, ed è avvilente vedere che non riesce a tenere il passo con il resto dell'Europa. Il fatto è che noi, diciamo, questo deficit culturale del nostro sistema fa sì che noi non riusciamo ancora a individuare il ruolo che l'Italia deve avere in un mondo globalizzato, cosa che per esempio la Germania è riuscita a fare, insomma, no? Siamo un paese che non può competere con le manifatture di bassa qualità, perché i cinesi e gli indiani ci fanno a pezzi, ma probabilmente non riusciremo a competere, se andiamo avanti così, neanche con gli ingegneri indiani o con gli ingegneri cinesi, perché non abbiamo una università che serve più ai professori che non ai nostri studenti, perché è tutto un sistema che, diciamo, che va resettato, non so come dire, no? Allora, la domanda che ti farò dopo che torniamo dalla pubblicità è: se a tuo giudizio questa vetta assoluta che nel Parlamento 2008, che va adesso a scadenza, dei sedicenti imprenditori, cioè addirittura 116 tra Camera e Senato, tu ne passi molte storie in rassegna, rivelando che poi sono imprenditori per modo di dire, però intanto è il numero record di imprenditori nella storia delle assemblee rappresentative della Repubblica. Allora la domanda che ti faccio dopo la pubblicità, la tua risposta è: ma il mito del gap and see me di Berlusconi, di cui veniamo con i suoi nodi al pettine e ci veniamo in maniera terribile per quella parte politica che è incapace di dire ancora se ci sarà, come ci sarà, che cosa Cappero farà, eccetera eccetera, è un po' una pagina che si chiude dolorosa, ed è una pagina nella quale il mito della delega all'imprenditore in qualche modo va sottoposto a rassegna critica, e forse anche questo che dà una mano poi a Bersani a vincere nelle sue primarie, perché certo quei 116 imprenditori in questo Parlamento non hanno proprio dato una gran prova di sé fino a questo momento. Tra gli ascoltatori, almeno i più tra gli ascoltatori, dicono l'effetto è che voteremo Grillo, abbiamo provato a votare, molti di voi hanno provato a votare anche al secondo turno ma sono stati respinti, come la straordinaria maggioranza di coloro che hanno provato a votare al secondo turno del ballottaggio. E l'effetto è che molti di voi dicono: no, Borsani certo non lo votiamo, votiamo Grillo. Pochi i messaggi fino a questo momento che si riconoscono nella vittoria dell'apparato rispetto al sindaco di Firenze, almeno tra coloro che mandano l'SMS, il che non è un campione rappresentativo neanche tra i nostri ascoltatori, quelli che hanno più voice, cioè che esercitano più il dito sulla tastiera. Quanto invece alle reazioni ai temi trattati nella nostra puntata con Sergio Rizzo, che è qui con noi, il suo libro Rizzoli, ricordo il titolo, Razza Stracciona, Uomini Storia di un'Italia che ha perso la rotta, inutile che ti nasconda, Sergio, che molti dei nostri ascoltatori dicono, perché ci sono molti piccoli imprenditori tra i nostri ascoltatori, dicono: eh già, è troppo facile criticare, dateci le tasse dell'America o le tasse della Germania, ti faccio vedere io quanta cultura finanzio, eccetera eccetera eccetera. Però ragazzi, bisogna invece dire che se Confindustria è un gigantone non molto efficiente rispetto invece alla Confindustria tedesca, lì le tasse non c'entrano, quindi c'è una propensione a come ci si organizza che è diversa. Allora, dicevamo, secondo te la vetta degli imprenditori in questo Parlamento, che ha fatto poco onore alla politica, è la fine della delega a Berlusconi, che pensi mi, o c'è qualche cosa di altro? Ma intanto bisogna dire che gli imprenditori che sono in Parlamento sono imprenditori, lo ricordavi anche tu prima, per modo di dire, nel senso che molti si definiscono imprenditori perché non sanno come diversamente definirsi, spesso e volentieri. Ma Berlusconi, diciamo, lui ha fatto passare un concetto profondamente sbagliato, no? Che è quello che chi gestisce un'azienda e lo fa magari con successo, come è stato nel suo caso, possa altrettanto efficientemente gestire un paese. Non è così, purtroppo non è così. Non è così anche perché l'Italia, questa Italia, non quella che sarebbe potuta diventare se Berlusconi avesse fatto il suo lavoro. E questa Italia non è assolutamente assimilabile a un'azienda, non lo è per tanti aspetti, non lo è perché con questo sistema burocratico è chiaro che non si può assolutamente fare un parallelo con un'attività imprenditoriale, ma soprattutto la politica è un'altra cosa, è una cosa ben più complessa, come dimostrano le vicende di questi giorni e di queste ore. E prima citavi Marchini, ma insomma io non vorrei che Marchini, anche lui, fosse la stessa cosa di questo equivoco. Che dire, sono molto perplesso anche sui risultati che ha dato questo quindicennio di sperimentazione degli imprenditori in politica. Insomma, il caso di Calearo è un caso strepitoso, per far capire come si possa diventare da un imprenditore di successo. Ricordiamo che lui è titolare di un'impresa che esporta il 90% della produzione, è uno che è stato presidente di Federmeccanica, che è uno dei fiori all'occhiello di Confindustria. Esatto, beh, insomma, è scivolato in una situazione che l'ha reso una macchietta, insomma, Calearo, che ha cominciato a io ricordo che un giorno l'ho incontrato durante una trasmissione televisiva e si è presentato con la scorta. Gli ho detto: ma scusi, ma lei ha la scorta? Dice: sì, ho la scorta, mi ha dato la scorta. E non sembrava minimamente turbato del fatto che per essere stato nominato consigliere per l'export, chissà poi che razza di significato aveva quella nomina di Berlusconi, diciamo, gli avessero dato addirittura tre persone di scorta. Insomma, uno che dovrebbe essere quantomeno critico nei confronti di questo, come dire, eccesso di spesa pubblica, di privilegi, insomma. Eppure abbiamo visto, e non è stato l'unico, perché poi diciamo, in questo equivoco sono caduti tantissimi. C'è da dire poi che c'è un'altra figura di imprenditori fra tutti questi soggetti che sono entrati in Parlamento. Ci sono quelli che hanno sempre strizzato l'occhio alla politica, no? E che fanno gli imprenditori con i soldi pubblici, che sono tantissimi. Alludo per esempio a quelli che hanno la proprietà di cliniche private in regime di convenzione con la sanità pubblica. Angelucci e così via. Esatto, no? E li abbiamo visti fiorire questi personaggi che sono entrati in Parlamento. Angelucci è citato, ma c'è da citare anche per esempio Ciarrapico, che tra l'altro si è ritrovato in società con uno degli acerrimi nemici del cavaliere, no? Quantomeno diciamo della cerchia degli acerrimi nemici del cavaliere, Caracci, poi il principe Caracciolo. Quindi questa è dimostrazione poi del fatto che in certi casi la politica e la differenza di opinioni politiche conta fino a un certo punto. Perché di fronte ai soldi si zoppica volentieri insieme, per così esatto, dire. Esatto. Allora, però c'è una pagina, almeno una, nella quale riconosci che Confindustria, a cui addossi tante critiche, secondo me giustificate, però c'è una pagina sulla quale dici fai eccezione su questo tema della legalità della fondazione necessaria per costruire un'Italia nuova con un ethos pubblico in cui quello privato degli affari deve a propria volta dare l'esempio a quello della politica per rifondarsi. Però tu dici un'eccezione c'è, perché in questi anni la lotta fatta per la legalità dal sistema Confindustria, da Ivano Lobello, da Antonio Montanti eccetera, quella è stata un'eccezione, è così? Ah, giù il cappello di fronte a certe cose, Ivan Lobello ha fatto una cosa incredibile, forse fino a qualche anno fa. Lui è stato così coraggioso da assumere una posizione tale per cui gli imprenditori che non denunciano il pizzo devono essere espulsi da Confindustria, e questa sua linea ha fatto breccia anche in Confindustria nazionale, e c'è stato un procuratore della Repubblica Scarpinato, procuratore di Caltanissetta, che è uno dei giudici in prima linea nella lotta alla mafia, bisogna ricordare, che ha sottolineato come se non ci fosse stato l'impegno di Montezemolo e della Marcegaglia successivamente, probabilmente sarebbe stato molto difficile che questa linea si affermasse a livello nazionale. Però è un fatto che oggi, grazie a queste posizioni, diciamo, c'è un principio sul quale penso ormai non si potrà più tornare indietro, cioè chi all'interno di Confindustria non rispetta la legalità deve essere messo alla porta. Allora, qua ti fermo un secondo, perché abbiamo chiamato Ivan Lobello, ma non tanto perché ascoltasse e ti ringraziasse di questo riconoscimento che c'è nel libro di Sergio Rizzo, ma perché volevo sentire da lui, visto che questo è un libro tutto costruito, e secondo me bisogna ringraziare Sergio Rizzo per questo, sul richiamo alle classi dirigenti, quelle imprenditoriali della finanza, della banca, a nei loro gradi elevati capire che la fondazione di un nuovo spirito di etica pubblica è la premessa per chiederlo anche alla politica. Allora volevo chiedere qualche considerazione a Ivan Lobello, partendo certo da quello che ha fatto, e quindi lui ha un'autorevolezza, una credibilità indiscussa su questo, ma cosa ci possiamo aspettare e cosa si può concretamente fare perché anche le classi dirigenti dell'economia, della banca e della finanza capiscano che questa è la strada da battere? Quante difficoltà ci sono a perché questo diventi la strada della rifondazione etica complessiva dell'Italia, insomma? Buongiorno e grazie di essere con noi, Lobello. No, buongiorno a voi, ciao Sergio. Pronto? Sì, eccoci. Sì, no, ho ascoltato la prima conversazione ed entro subito nel merito. Intanto vorrei ringraziare Sergio per aver delineato, insomma, la nostra iniziativa in Sicilia e il ruolo che ha avuto a livello nazionale. Anch'io sono d'accordo sul fatto che sarà difficilissimo tornare indietro, ormai si è radicata non solo nelle nostre regole, nei nostri codici etici, però anche, diciamo così, in una cultura che sta cambiando, pur se lentamente, il sistema imprenditoriale, cioè dove ethos pubblico, come diceva lei, mercato, concorrenza, regole sono fondamentali, perché molte delle cose che emergono nel bel libro di Sergio Rizzo sono legate proprio all'assenza di mercato e di regole. Troppo spesso emerge ancora oggi un sistema molto relazionale, a volte opaco, ambiguo, e non un sistema trasparente dove con regole certe e con mercati che funzionano. Il tema italiano in questi anni è stato proprio questo, cioè lo scarso ethos pubblico che abbiamo manifestato negli ultimi anni è dovuto anche alla struttura sociale ed economica del nostro paese. Lei ha detto una cosa molto importante, la società civile deve fare un passo in avanti, non può limitarsi a dire che la politica non funziona, perché purtroppo nel nostro paese c'è anche un pezzo della società e del mondo economico che non funziona come la politica. E allora credo che il tema centrale oggi sia proprio quello, essere realmente classe dirigente nel paese. Essere classe dirigente non significa non tutelare i propri legittimi interessi, ma coniugarli con una visione complessiva dell'interesse generale e con una fortissima capacità di essere esempi viventi di etica pubblica nel panorama nazionale. Questo è il tema. Il libro di Sergio Rizzo secondo me è molto importante perché racconta un'Italia non proprio tra le migliori, che in molte componenti ancora oggi ha un ruolo fondamentale nel nostro paese. E lì c'è da fare veramente un grande lavoro. Giuste le critiche nei confronti del sistema politico, ma bisogna partire anche dalla società. Io ho sempre detto in questi anni che la società non è stata migliore del sistema politico, ne ha assecondato vizi, difetti. Pensiamo alla nostra crisi, che è anche il frutto della cura quotidiana di tanti piccoli interessi particolari che sono stati frutto di uno scambio tra società civile e mondo politico. Allora credo che l'occasione della crisi di oggi è rifondare una visione molto forte dell'etica pubblica, capire che gli interessi particolari hanno una loro legittimità, ma devono coniugarsi necessariamente con l'interesse del paese, specialmente in una fase di grandi cambiamenti come quella che stiamo affrontando, dove senza avere una forte etica pubblica, senza guardare agli interessi generali del paese, non si possono tutelare neanche i tanti piccoli interessi particolari. Ecco, questa è la svolta. Se chiediamo alla politica di cambiare, dobbiamo chiedere anche alla società italiana di cambiare profondamente. Allora, io ringrazio Ivan Lobello per questa testimonianza. Ripeto, nel libro trovate tante vergognose, a mio giudizio, questo è il mio giudizio, storie della Banca Finanza e Impresa di questi anni, che testimoniano come si vada a braccetto nella degenerazione dell'etica politica con quella pubblica. Vicende come quella, per fare nomi concreti, di Fonsai, di Gresti, Unipol, Mediobanca, con la prima banca d'affari che continua a dare garanzie a un'azienda assicurativa in cui era evidente da anni la mala gestio e la spoliazione di valore da parte dei privati che la gestivano, mentre per esempio alla Consob il regolatore dormiva perché il figlio di chi era la testa della Consob prendeva i soldi come consulente da Elgresti. Ecco, di storie come queste è pieno il libro di Rizzo, e io credo che noi dobbiamo essere grati a chi dal grande quotidiano italiano trova il tempo di fare, oltre che il giornalista ogni giorno, di mettere la penna nel curaro. Perché penso che quando si abbia la fortuna per merito di lavorare in grandi quotidiani, e a quel punto giustamente per merito ciò che si scrive ha ancora maggiore impatto, il fatto che lo si scriva non tanto e non solo per soddisfazione, ma perché si mira a ogni libro che si scrive a mettere un mattone in più sul muro della credibilità pubblica, civile del nostro paese. Questa è la maniera alta e nobile di fare giornalismo. Non è un complimento personale, non ci guadagno niente. Lo faccio a Sergio Rizzo, come l'ho fatto più volte a Stella e altri colleghi di altre convinzioni che scrivono in questa maniera, perché guardate, non è facile scrivere in questo modo di vicende che riguardano le prime banche italiane, grandi gruppi finanziari, non è facile, perché si rischia molto. Io ho pagato dei prezzi talvolta nella mia vita molto meno ricca di successi, perché ho molto meno talento. Allora, quando c'è gente capace di dire pane pane, vino vino, e di richiamare lo spirito di tutti in questo paese, soprattutto di chi ha di più, di chi amministra più potere, di chi sta nei consigli di amministrazione intrecciati, dei patti di sindacato, e di dire: cari signori, in definitiva voi il titolo per criticare la politica che degenera, che è incompetente, che si occupa di arraffare, che c'ha mille casi fiorito in tutta Italia, però voi in realtà chiamate a rispondere dei denari dei vostri soci di minoranza o dei denari che ci mette il mercato finanziario, siete poi davvero tanto migliori? Ecco, quando ci sono libri così, io penso che bisogna dire a chi l'ha scritto, come in questo caso a Sergio Rizzo: scrivicene un altro per favore, perché l'Italia ne avrà ancora bisogno. Allora, This is the end. Questo giorno lo dedichiamo al Monte Paschi, la banca nata nel 1472, che è sopravvissuta alla scoperta dell'America e ogni tipo di calamità e di perdita di credito dell'Italia e della Toscana in tanti secoli, ma non è sopravvissuta alle adunche mani del partito politico che la controllava e continua a chiedere aiuti di Stato. Non lo dico perché quel partito era il PD, ex erede del PC, ma lo dico perché ogni partito, se tiene le banche, fa così. E anche questo c'è scritto nel libro di Sergio Rizzo, ma non dimenticatevelo, visto che ci sono le primarie del PD, ed è su questo che abbiamo chiesto telefonate, e sentiamo chi e che cosa di voi pensa del primario. Cominciamo con Danilo da Milano. Prego Danilo. Sono Danilo da Milano, dottore. Sì, eccoci qua. Vorrei dire che non ha vinto Bersani, ha vinto mister patrimoniale, mister revitalizia ai parlamentari, mister finanziamento pubblico dei partiti, cioè il vecchio partito Trinariciuto che non vuole muovere nulla. Bersani, De Renzi era la mia speranza, purtroppo è andata, è una speranza vana. Per quanto riguarda invece gli investitori nell'industria privata, volevo dire semplicemente questo: con un articolo 18, con una Camusso, con una magistratura militante che impone di riassumere gente che sabotava l'azienda, chi investe in questo settore? È un pazzo. Allora Danilo, su questo l'opinione di Sergio Rizzo è diversa, che l'articolo 18 non giustifica i tanti difetti comunque anche della classe di impresa italiana. Lui distingue tra i centinaia di migliaia di piccoli imprenditori che ogni giorno fanno i miracoli rispetto a molti in alto che invece fanno affari che non dovrebbero affare. Sentiamo Luigi da Trento sulle primarie. Luigi, prego. Sì, buongiorno. Niente, io sono un po' d'accordo anche sull'ascoltatore parlava poco fa. Volevo dire, io sono sempre stato un elettore di centrosinistra, però non sono andato alle primarie, alle prossime politiche non andrò a votare, andrò per annullare la scheda, perché penso che PD, Bersani, niente da dire con, per il signor Bersani, è una stimatissima persona, però credo che il PD al momento giusto doveva metterci la faccia e non nascondersi dietro il governo Monti, il quale in quest'anno secondo me ha fatto un bel disastro a livello di... Ha fatto un bel disastro. Però io penso che le due conseguenze di Bersani siano: primo, che governerà Bersani, è finita la storia dello scudo Monti continua, è finita la storia di Montezemolo e Casini, che infatti si mettono insieme perché si mangiano anche i voti, perché è finita l'ipotesi che Monti resti. Bersani, dopo questa vittoria e dopo aver galvanizzato i suoi e avendo un segno 3 nella doppia cifra del suo partito, è l'unico che ce l'ha il segno 3, penso che si avvia a governare, e vi ha detto chiaro che mette la patrimoniale. Pensateci bene a casa, poi non dite che non c'è l'alternativa. Per me la patrimoniale deve pagare lo Stato, non voi. Però avete votato per Bersani e Bersani ha più del 30%, quindi bisogna riconoscere che questo è ciò che vi aspetta. Chiara da Grosseto, prego Chiara. Buongiorno, volevo dirvi che sono contenta che si parli finalmente di etica e di nuovo in Italia. Queste primarie ci hanno dato proprio spunto per discuterne. Mi dispiace che in base alla mia esperienza abbia avuto la dimostrazione che ha vinto ancora la tranquillità del potere, chi comanda, insomma, sono sempre quelli che hanno in mano l'apparato. Lei ci è andata? Non ho potuto perché avevo dei validissimi motivi per andarci e non mi hanno accettata. Ah, non l'hanno accettata. Senza sapere chi avrei votato, perché avrei potuto. No, ma devo dire, il segno dell'ultima settimana, cioè il no a Benita ai seggi, era il segno di una oligarchia che aveva paura. Del resto, questa è la sua forza nella storia. Ha sfidato qualunque sconfitta storica e sta in piedi dopo la prima Repubblica, la seconda è Berlusconi, perché la forza dell'apparato oligarchico viene prima dell'interesse pubblico. Lo so che è un giudizio duro, molti di quel partito dicono che non ho diritto di darlo, io la penso così, e appuntamento a domani.